Lei era una lacrima, lacrima dentro una dipendenza, dipendenza, quel vuoto dentro una stanza, stanza romantica visione d'astinenza, astinenza, provava per me dipendenza, dipendenza. Lacrima dentro che si asciuga solo con un pianto, pianto altro, pianto. Alto. Vorrei essere il tuo cuore, per farti battere dentro questa canzone. Vicino a quel molo fui rapito dal tuo sguardo così fatato. Tu che sei lacrima di ghiaccio ad ogni mio sbaglio. Amato come t'ho amato non c'è mai stato. Dritto al cuore come un pugnale il tuo fiato. Quando è rotto dalle droghe e dall'eroina, sei diventata un'eroina te stessa. Combatti contro la sorte avversa, la dipendenza. Danzi in quella canzone che ti piace tanto. La senti, ti gira intorno come un tango. Cerchi il tuo principe azzurro, che arrivi una carrozza un giorno, con tanti soldi per non averne più, più bisogno, come quel cibo che manca nel frigo ogni giorno. Canto per te perché non ho nient'altro, canto perché nient'altro mi possiede se non te. Dentro a due mani che si fanno un abbraccio c'era un brivido di ghiaccio e calda armonia. Ero in quella stagnola, dentro cigni viola, come la passione di Cristo. Dio, Dio, fai risorgere in me un'emozione in un bacio, in due labbra ghiacciate, amare di sale, sapore, amare, amare te. Ti ammiro, sai, sei una donna che non molla mai. Pur non avendo niente tra queste dipendenze, noto il tuo pianto agognato e spero non per sempre. Finirà questo inverno, queste nubi nere smetteranno di piovere e di fare tuoni, lo spero al meglio per te. Una vita che ci divide e ci unisce al contempo.